Ci manca a tutti qualcosa, ma il mio sogno è rimasto intatto. Considerami normale, che già la natura mi ha fatto torto. Mettiti nei miei panni, quando il tuo sguardo mi piomba addosso. Di dentro sono intatto, prova a vedermi con un altro occhio. Ognuno ha le sue ferite, le mie sono più evidenti. Io già di dentro porto croci, impossibili orizzonti. Non aggiungere al mio vivere altre spine, altri tormenti. Non lasciarmi in mezzo a un mare di correnti. Vedo nel tuo cuore il mio riflesso farti sbandare. Non avere paura di me, non lasciarmi sprofondare alla suprema solitudine. Non mi abbandonare, lasciami un tuo respiro, un respiro da abbracciare. Delle tue lacrime ne farò tesori per i miei occhi inariditi. Di ogni tuo abbraccio ne farò archi di stelle per lanciare frecce nei cieli infiniti. Con le tue carezze costruirò palazzi, profumerò tutti i nostri sogni. A modo mio ti darò del mio, tu a modo tuo, tu dammi del tuo. Molti cambiano strada al solo mio apparire, e molti chiudono gli occhi al solo mio vedere. Tu che sei diverso, aprimi il tuo cuore, che ho mille carezze da dare, supremi sogni da sognare. Ci manca a tutti qualcosa, ma il mio sogno è rimasto intatto. Considerami normale, che già la natura mi ha fatto torto. Mettiti nei miei panni, quando il tuo sguardo mi piomba addosso. Di dentro sono intatto, prova a vedermi con un altro occhio. Nelle tue lacrime ne farò tesori per i miei occhi inariditi. Di ogni tuo abbraccio ne farò archi di stelle per lanciare frecce nei cieli infiniti. Con le tue carezze costruirò palazzi, profumerò tutti i nostri sogni. A modo mio ti darò del mio, tu a modo tuo, tu dammi del tuo. Delle tue lacrime ne farò tesori per i miei occhi inariditi. D'ogni tuo abbraccio ne farò archi di stelle per lanciare frecce nei cieli infiniti. Con le tue carezze costruirò palazzi, profumerò tutti i nostri sogni. A modo mio ti darò del mio, tu a modo tuo, tu dammi del tuo.